Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il quotidiano aggiornamento sulla Grecia, che oggi vuol dire sì, la Grecia, ahimè c'è anche un incendio alle porte di Atene, ma vuol dire soprattutto le dichiarazioni di Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, che ha ribadito il debito greco va alleggerito con un periodo di grazia, bisogna prolungare le scadenze e ridurre i tassi di interesse. Nel giorno in cui il Bundestag, quindi il Parlamento tedesco, la Camera elettiva, ha votato il pacchetto di aiuti alla Grecia, a favore 439 deputati, contrari 119. Angela Merkel, poi ne parleremo nella seconda ora, ha detto so che ci sono molti dubbi sul fatto che la Grecia possa stare di nuovo sulle sue gambe, ma sarebbe irresponsabile non tentare questa strada. Poi però ha escluso un taglio del debito che stravolgerebbe i trattati dell'Unione Europea. Sul fatto che la Grecia vada salvata ha poi detto invece il falco, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble: sul fatto che la Grecia vada salvata siamo tutti d'accordo, ma bisogna vedere quale sia la strada che può funzionare. Questo nel giorno in cui il nostro spread è stabile a 115 punti, il rendimento del BTP a 10 anni è all'1,96%, la borsa è piatta, Parigi più 0,07, Milano meno 0,1, Francoforte meno 0,37%, Londra meno 0,45%, l'America meno 0,38%, i titoli sono poco mossi, obiettivamente il migliore Monte dei Paschi guadagna l'1% come il Banco Popolare ed Estima Microelectronics, poi c'è la Popolare Emilia Romagna che guadagna lo 0,70 come la Pop Milano, Luxottica più 0,40, fronte opposto Tenaris meno 1,90, CNH meno 1,5, Saip meno 1,40%, Mediaset meno 0,90 come Eni e Autogrill, euro a quota 1,08, quindi leggermente più debole di quota 1,1, 1,10, 1,11 in cui si era mosso nelle ultime settimane. Parleremo, dicevo, di Grecia, ma anche della riforma della pubblica amministrazione. Può sembrare un tema noioso, ma in realtà è uno dei passaggi cruciali se si vuole fare delle riforme che ammodernino e rendano realmente più efficiente questo paese. Non attendiamoci troppo, nel senso che la legge che oggi è stata approvata alla Camera con 253 sì e 93 no passerà adesso in terza lettura al Senato, non dovrebbe essere cambiata lì. Vi sono misure importanti soprattutto sui dirigenti della pubblica amministrazione anche sui concorsi, però la cosa per cui dicevo attenzione a immaginare che tutto cambi non appena verrà approvata la legge. Lo dicevo perché in realtà poi la maggior parte dell'operatività, delle misure reali e concrete di questa legge saranno delegate, scusatemi il gioco di parole, ai decreti attuativi, ai decreti delegati, per cui su questo verrà approvato, salvo novità, ma non dovrebbero esserci il testo, la legge quadro, la cornice, ma poi bisognerà attendere i decreti delegati. Comunque, di questo parleremo anche perché ci collegheremo quindi così in maniera virtuale con il tema di apertura del programma. Oggi è la volta della poco invidiabile classifica ogni venerdì di Focus Economia, gli sprechi, le cattive abitudini, il cattivo utilizzo, per non dire malversazione in alcuni casi, del denaro pubblico. Lo dico precisando che sappiamo benissimo come molti consiglieri regionali, comunali e anche funzionari del pubblico impiego lavorino molto bene, lavorino nel caso dei consiglieri anche con gettoni di presenza irrisori. Noi ci occupiamo di quello che non funziona, non di quello che funziona. E in secondo luogo sappiamo che esistono sprechi, cattive abitudini e cattiva gestione anche nel settore privato, con l'unica differenza che il settore privato non utilizza denaro pubblico, sembra diciamo ovvio e lapalissiano, ma vale la pena ricordarlo, per cui poi ci sono gli azionisti, ci sono i proprietari, i soci, e valuteranno loro come viene gestita un'azienda privata. Quando l'azienda e la società è pubblica, la valutiamo noi perché i soldi sono nostri. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda l'economia internazionale, i dati che arrivano oggi dagli Stati Uniti sono di un'inflazione che va allo 0,3% a giugno, in linea con le previsioni degli analisti. E questo è importante perché sappiamo che l'America andrà ad alzare i tassi di interesse dopo settembre, ma guarda con attenzione all'inflazione, anche perché nel frattempo il dollaro si è rafforzato nonostante la non azione della Federal Reserve per quello che è successo in Europa da quantitative easing in poi. Comunque, la notizia ancora più forte dagli Stati Uniti è l'avvio di nuovi cantieri, più 9,8% a giugno, un dato nettamente sopra le stime degli analisti, così come i permessi per le costruzioni sono aumentati del 7,5% in meglio di ogni attesa. Chiaramente sono indicatori sul ciclo economico, quando tu chiedi permessi per nuove costruzioni e apri nuovi cantieri, di solito l'economia sta andando bene e sta migliorando. Allora, per quello che riguarda la Grecia, poi ripeto, poi ne parleremo, è imminente, dovrebbe arrivare già stasera il rimpasto di governo. Questo nel giorno in cui poi tra l'altro il Ministero delle Finanze ha chiarito che le banche non riapriranno lunedì mattina, apriranno solo le succursali che devono offrire servizi ai pensionati privi di card di credito o di bancomat, dicevo appunto delle dichiarazioni di Christine Lagarde, e poi ascolteremo anche altre dichiarazioni di carattere diverso. Penso per esempio al vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che ha detto: abbiamo un accordo per il prestito da 7 miliardi che arriveranno in tempo da Atene per lunedì, il famoso prestito ponte. E ancora discutiamo del debito greco, sempre Dombrovskis, ma non del taglio. Adesso l'Eurogruppo ci darà un mandato per negoziare. Tutto questo nel giorno in cui Angela Merkel ha compiuto 61 anni, ha assistito al voto chiaramente al Bundestag, che poi andrà in vacanza per 3 settimane. Non so dove vada in vacanza, non so se andrà in Grecia, per cui dubito insomma che possa andare in Grecia. Per il resto segnalo sul fronte italiano che la Banca d'Italia oggi nel suo bollettino economico rivede leggermente al rialzo la crescita del PIL italiano nel 2015 rispetto alle sue stime di gennaio, però lo 0,7%, devo dire che lo 0,7 è la cifra su cui c'è il maggiore consenso come incremento del PIL quest'anno, dell'1,5% l'anno prossimo. Dopo 3 anni iniziano a far notare la Banca d'Italia a farsi sentire le misure della Banca Centrale Europea, perché dicevo dopo 3 anni sono in crescita, seppure in maniera leggera, i prestiti alle famiglie e alle imprese. Per la prima volta sono aumentati quelli alle famiglie dello 0,4% e alle imprese dello 0,7%. Era 3 anni appunto che non si vedeva il segno più nell'andamento, nella dinamica dei crediti concessi a imprese e famiglie. Poi la Banca d'Italia stima una disoccupazione che dovrebbe scendere sotto il 12% nel 2016, all'11,9% contro il 12,6% del 2014 e il 12,3% attuale. L'effetto positivo del Jobs Act non è ancora quantificato, aggiunge la Banca d'Italia. C'è una stima invece positiva sugli investimenti nel 2015, già nei primi 3 mesi hanno fatto un più 1,5% rispetto agli ultimi 3 mesi del 2014. forte espansione degli investimenti nei mezzi di trasporto anche per le agevolazioni fiscali. Poi c'è una parte di domanda aggiuntiva di investimenti per l'avvio dell'Expo di Milano. Buona la componente dei beni strumentali, più 2,5%. E poi la Banca d'Italia dà una sua analisi e commento anche sul decreto varato dal governo in tema di fallimenti. Secondo le prime valutazioni, dice la Banca d'Italia, le misure introdotte potrebbero dimezzare la durata media delle procedure fallimentari e ridurre significativamente quelle per le procedure esecutive immobiliari, con effetti positivi anche per i bilanci bancari. Ancora sul tema invece fiscale, è emerso oggi che anche le attività e le imposte riferite ad anni per i quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale potranno accedere alla voluntary disclosure, quindi la dichiarazione che va fatta al fisco, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale. Questo è previsto nel decreto fiscale sulla certezza del diritto, quello esaminato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri. Allora, dicevamo della riforma della pubblica amministrazione, ce ne occuperemo nella seconda ora per capire quali siano i pilastri, ripeto, in attesa poi che non solo venga approvata definitivamente dal Senato, ma arrivino i decreti attuativi. Però a questa riforma fondamentale, se verrà fatta bene, sono dedicati 100 secondi di Radio 24 al Sole 24 Ore. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La legge delega per la riforma della pubblica amministrazione ha ottenuto oggi il via libera della Camera. Il testo ora deve tornare al Senato per il voto definitivo, che potrebbe arrivare prima della pausa estiva. Si tratta di una riforma molto attesa, gli obiettivi sono numerosi, c'è la razionalizzazione delle amministrazioni statali con una dieta dimagrante per gli uffici del governo, per esempio per le prefetture, con l'assorbimento del corpo forestale in un'altra forza di polizia. C'è il riordino della dirigenza pubblica con l'introduzione di incarichi a termine, la valutazione dei risultati e l'eventuale licenziamento dei dirigenti. C'è un nuovo tentativo di riordinare le 7.000 società partecipate pubbliche, in più un nuovo impulso alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle semplificazioni. Insomma, tanti propositi, tutti giusti, tutti condivisibili, ricordando che si tratta di una legge delega. Il governo avrà 12 mesi di tempo per predisporre i decreti di attuazione. Solo allora sapremo se ciò che prevede la riforma produrrà i cambiamenti attesi. È una sfida decisiva, perché solo con una PA efficiente e moderna si possono creare le condizioni per rilanciare la crescita e gli investimenti. Il nostro paese sconta molti gap: il peso del fisco, la lentezza della giustizia, un sistema di infrastrutture non adeguato, ma una macchina amministrativa che non funziona rischia di essere il problema dei problemi, da risolvere senza perdere tempo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Due notizie prima di arrivare alla classifica. Allora, l'INPS oggi, nel fornire un insieme di dati, fa notare che da un lato le domande di disoccupazione a maggio siano calate anche in maniera pesante del 29% rispetto a un anno prima, 85.764 contro le 120.760 del maggio 2014, che anche la cassa integrazione è calata nel mese di giugno, meno 10% rispetto al mese precedente, ma la cosa più importante rispetto all'anno prima, meno 3,3%, che però il fondo clero è il fondo che eroga la pensione a 13.788 ex sacerdoti, molte volte sono pensioni anche molto modeste, ha una gestione costantemente in passivo, nel 2012-2015 ha avuto un rosso che è viaggiato sempre tra i 56 e i 115 milioni. Il disavanzo patrimoniale è di oltre 2 miliardi e 200 milioni. Il fondo, tra l'altro, non fu toccato a suo tempo dalla legge Fornero. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, la nostra poco invidiabile classifica, vedo che alcuni scrivono anche tra le società private, vincono sempre gli azionisti di maggioranza, i grossi azionisti a danno dei piccoli. Lo abbiamo raccontato decine di volte in questi anni, purtroppo. La differenza non è, nessuno ha mai detto che i manager delle società private abbiano una superiorità morale, ma quando mai sui manager delle società pubbliche o sulla gestione del pubblico. La differenza è che quelli, mi dispiace dirlo, sono casi del privato. Gli azionisti possono votare in assemblea, se non lo fanno fanno male, possono fare dei ricorsi, insomma, si lavora nel settore privato e poi il manager risponde a degli azionisti, che siano pochi o siano tanti, perché la società è quotata, poco cambia. Altra cosa invece, quando tu gestisci i denari pubblici, la cosa pubblica e i servizi pubblici, come stiamo per raccontare, lì abbiamo diritto di intervento. Io non sono azionista di nessuna società, ma pago le tasse, quindi contribuisco a mantenere anche chi gestisce così male la cosa pubblica. Il discorso è molto semplice, allora andiamo con la classifica. La classifica della settimana. Allora, la classifica oggi è un po' strana perché c'è un ex aequo, ma non è al primo posto, è al quinto posto, perché eravamo molto indecisi che se partire da una nota così che racconta di nuovo come non riusciamo a valorizzare il nostro patrimonio artistico, oppure partire dai consiglieri del Comune di Torino, che hanno tanti problemi da discutere ma si occupano di cose ai massimi livelli. Li abbiamo messi ex aequo perché? Perché si è aperto un grosso dibattito nel Consiglio Comunale di Torino, dove si è arrivati perfino a dire che la misura è colma, come ha detto il moderato Dario Troiano di fronte ai colleghi. Altri hanno fatto delle proposte che verranno discusse in Consiglio Comunale, e poi altre dichiarazioni molto molto risentite, dure, lotta dura senza paura. Per che cosa? Per l'infradito e la cravatta. È successo che un consigliere comunale dei 5 Stelle si è presentato in comune in Bermuda, vabbè, e molti colleghi hanno fatto rimostranze, e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Porcino ha diramato una circolare per rammentare che c'è un regolamento e va rispettato, già che cravatte per gli uomini sono d'obbligo. Fine, no? Cioè, parlate di altro, avrete qualcosa di cui occuparvi a Torino che non siano le Bermuda o il dress code dei consiglieri? No, ma figurati. Allora, Luca Cassiani, presidente della Commissione Cultura, e Vittorio Berto, la capogruppo del 5 Stelle, si sono presentati in commissione la scorsa settimana in bermuda e sandali. Allora, il moderato Dario Troiano sbotta gridando la misura è colma, va bene non indossare la cravatta ma addirittura le bermuda, un minimo di ritegno. A questo punto Troiano chiede una stretta sui costumi, il radicale Silvio Viale invece dice che presenterà una proposta per abrogare l'obbligo della cravatta che ormai vige solo in Sala Rossa e in Senato. Però io la cravatta continuerei a metterla, è della serie chi se ne frega. E poi sempre Viale punta alla parità di genere e voglio far indossare la giacca anche alle donne. Ribatte a quel punto Barbara Cervetti dei moderati, va bene la decenza ma la giacca se la metta lui, non è la giacca a garantire il decoro dell'aura, riflette la grillina Chiara Appendino, io abolirei anche quella. Ok, molto interessante. Lavorare mai, cioè chiedo lavorare. Vabbè, adesso immagino che tra l'Iran, i rapporti con la Russia, la crisi greca, arriverà forse una telefonata anche della Casa Bianca ai consiglieri comunali di Torino. Ma ripeto, lavorare. Però al quinto posto, dicevo, ex aequo, va anche la gestione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Io ebbi tempo fa anche una discussione con la sovrintendente di Reggio Calabria sul tema dei bronzi di Riace, che non voleva spostarli all'Expo perché, poi c'è stata la polemica con Sgarbi, perché diceva che devono venire i turisti a vederli in Calabria. Obiettivamente, quando c'è la manifestazione, i turisti vanno dove c'è la manifestazione, abbia pazienza. Però qui parliamo del Museo Archeologico Nazionale, è uno dei primi 20 musei italiani, è il più visitato del Mezzogiorno, ha un patrimonio archeologico di valore inestimabile, dove all'estero su una roba del genere creerebbero dei parchi giochi, catene alberghiere, di tutto. Allora, quando uno ci entra deve orientarsi tra le meraviglie archeologiche esposte, l'impresa è leggermente ardua. Non tutti i reperti infatti hanno le didascalie. Ora, io capisco che ci possono essere anche dei figli o degli epigoni di Indiana Jones nel museo, però le didascalie, quando vai a visitare un museo, a maggior ragione di archeologia, servono un po'. Allora, per esempio, tra i pannelli della necropoli dell'antica Region oppure della Regium Iuli ci sono una marea di esemplari con indicazioni scritte a penna su pezzi di carta strappata alla meno peggio o affidati addirittura ai classici post-it gialli che hanno la caratteristica di staccarsi ogni tanto. Addirittura ritagli di carta da cucina al posto delle didascalie segnala il personale e i visitatori. Il personale, tra l'altro, non ha nessuna livrea, nessun abbigliamento identificativo, lo si riconosce solo dal cartellino sul petto, ma almeno quello c'è, non è scritto con un post-it. Poi ci sono impronte lasciate sui pannelli, macchie sui vetri delle teche. Ora uno può dire, vabbè, ma l'hanno riaperto il 4 luglio scorso, hanno avuto poco tempo, è un work in progress. Work in progress, una mazza, scusatemi il termine. E la riapertura del Museo della Magna Grecia, come si chiama in maniera molto pomposa, era attesa per il 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Poi, anni di ricorsi al TAR, lunghissime attese, si arriva a un altro rinvio al 4 luglio, poi riapre, e voglio dire, certo il tempo un po' è mancato per mettere le didascalie, perché doveva aprire il a metà del 2011, in effetti 4 anni per le didascalie non sono il massimo. Capiamo. Restiamo al sud, oggi c'è molto sud, perché? Perché è veramente incredibile quello che riesce a spendere la regione Campania per un servizio che potrebbe anche avere un senso se pensato, cioè se ci metti anche la testa. Il servizio si chiama Campania Express, è un treno extra lusso della Circumvesuviana che fu annunciato 3 settimane prima delle elezioni dall'assessore dei trasporti di Caldoro, Pasquale Sommese. Beh, insomma, è il flop dell'estate, no? C'è il disco dell'estate e c'è anche il flop, potremmo fare anche la classifica del flop dell'estate. Comunque, perché i treni Metrostar diretti a Sorrento effettuano solo 3 fermate, Ercolano, Pompei e Capolinea. Però voglio dire, bellissimo, Napoli, Ercolano, Pompei e arrivi a Sorrento, c'è un sogno per qualunque turista, italiano o straniero. 15 euro il prezzo di andata e ritorno, 10 per il possessore di altre carte. I treni viaggiano praticamente vuoti, ma dico, ma qualche studio di fattibilità di richiesta prima lo fanno? Allora, uno dei macchinisti sottolinea che quando va bene ci sono una decina di passeggeri. Praticamente, e dobbiamo questo al Corriere Napoli, è andato a verificare una mattina di qualche giorno fa, 8:40 di mattina, sul treno c'erano più lavoratori che viaggiatori. Macchinista, capotreno, hostess e steward. Solo 4 passeggeri alla partenza, altri 6 persone nel totale. Il treno potrebbe portarne 70. La cosa interessante è che non c'è un video, una spiegazione, nulla sugli scavi archeologici o sulle peculiarità della penisola sorrentina. Voglio dire, se fai un treno Campania Express che richiama l'Orient Express, quindi di lusso, e il tragitto è bellissimo, ti conviene farla fino in fine l'operazione, non solo per l'appalto sulla circumvesuviana, metti anche dei video, delle cose che invogliano il turista a prenderlo, vendilo con il tour operator, ma porca miseria, anche perché questa roba costa per gli straordinari, solo di straordinari al personale 800 euro, però nei 5 mesi del servizio sono già uscite 120.000 euro. La SCABEC, che è la partecipata della regione che fornisce hostess e steward, incassa 400.000 euro per l'intero periodo. Sono fondi europei. Okay. Quindi ogni mese Campania Express ingoia 104.000 euro. Se immaginiamo 10 passeggeri a corsa, 6 corse al giorno, si arriva a 900 euro al giorno, 27.000 euro al mese. 135.000 euro per 5 mesi, nel frattempo ne è già costati 400.000. O meglio, costerà alla regione 370.000 euro. La colpa è di Caldoro? No, dico semplicemente che quando fai un progetto del genere, o meglio sì, è dell'amministrazione che ha deciso di fare, di creare sul percorso della circumvesuviana questo Campania Express senza valutare, o senza fare gli accordi con il tour operator, senza valutare l'impatto. Di solito uno quando fa una cosa del genere va a vedere il potenziale, non è che lo fa partire e poi ci smazza 104.000 euro al mese per avere 10 persone, se va bene, a tratta, ok? E pagare appunto 400.000 euro di steward e hostess in 5 mesi. E va bene, siamo arrivati al quarto posto, è lunga oggi la salita, perché mancano il terzo, il secondo che mi farà arrabbiare e poi il primo, già alcuni di voi se lo ricordano perché lo sospendemmo la settimana scorsa per via della tragedia che capitò proprio alla metropolitana di Roma. Comunque meteo prima di tutto, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta. Allora andiamo al, purtroppo qui c'è poco da ridere, c'era da ridere poco anche prima, ma andiamo alla terza, alla seconda e alla prima classificata delle nostre poco invidiabili notizie. Allora, al terzo posto io chiedo, ma come cavolo si fa nel 2015 a obbligare un cittadino di San Marco Argentano, provincia di Cosenza, a percorrere 200 chilometri in 3 diversi ospedali per prenotare una visita? Cioè, in un mondo normale, non me ne frega niente la banda larga, basta anche il tac, il piccione. Cioè, voglio dire, in un mondo normale prenoti con un click, no? Sulla tastiera di un computer, te lo fai fare da tuo figlio se non riesci, no. Allora, lui doveva farsi fare una visita e accedere al servizio sanitario pubblico anche a pagamento. Erano 3 prestazioni in realtà. Cosa gli succede? Allora, il 10 giugno scorso va al centro unico di prenotazione. Si chiama centro unico di prenotazione perché avrà unico, è un aggettivo, no? Vuol dire che è quello lì, no, ma figurati, a San Marco Argentano deve prenotare 3 prestazioni. L'operatore lo invita a rivolgersi al centro di Cosenza per prenotare 2 delle 3 visite, in quanto è impossibilitato a procedere con la prenotazione, non si capisce perché. Allora lui prende la macchina, va a quel punto al CUP, al centro unico di prenotazione di Cosenza. A parte il fatto che un centro unico di prenotazione non si capisce perché ce ne siano così tanti, vabbè, ma lasciamo stare. Va, riesce a prenotare solo una delle 2 prestazioni che ancora gli restavano e gli dicono: no, guarda, per la terza, siccome, voglio dire, ti sei mosso poco, devi andare al CUP di Castrovillari, anche quello centro unico di prenotazione di Castrovillari, come se a Castrovillari ci potessero essere 3-4 centri di prenotazione, ma chiamatelo centro multiplo di prenotazione comunque. E quindi lui prende e va anche a Castrovillari. In totale 200 chilometri su e giù per la provincia per fare un'operazione che, ripeto, in un paese normale bastano 3 click. Ma qualcuno al centro unico delle prenotazioni di Marco Argentano, a quello di Cosenza e a quello di Castrovillari. Si prenderà mai la responsabilità, prima che, visto che dopo parleremo di riforma della pubblica amministrazione? Beh. Allora, volevamo mettere al numero uno, come annunciato la settimana scorsa, l'ATAC di Roma, però c'è una cosa che mi dà ancora più fastidio e quindi l'ATAC va al numero due e al primo posto se lo becca Foggia oggi, il comune di Foggia, i consiglieri comunali di Foggia, però l'ATAC prima. Allora, l'ATAC è stata costretta a rinviare l'approvazione del bilancio. Perché ne parliamo? La notizia in realtà era di due settimane fa, ripeto, l'abbiamo sospesa per la tragedia che è capitata alla metropolitana di Roma. Perché, nonostante il quadro che sto per illustrarvi, i dipendenti dell'ATAC della metropolitana hanno messo in atto uno sciopero bianco rallentando la circolazione dei treni, perché il sindaco Marino, che ha tanti difetti, tanti problemi, ma aveva fatto una cosa giusta, aveva chiesto, obbligato i conducenti a introdurre, a strisciare il badge all'inizio e alla fine del turno. Ribellione, protesta. Allora vediamo di capire se per caso queste rivolte fossero giustificate. Allora, nel 2014 l'ATAC rischia di non poter licenziare il suo conto economico perché ha un buco di 141 milioni del 2014, però siccome nei primi mesi del 2015 sono crollati tutti gli indicatori di redditività e produttività, ha già generato 60 milioni di ulteriore passivo nel 2014. Questo rischia di azzerare il capitale sociale e se il Campidoglio, il Comune di Roma, i romani non mettono 40 milioni di euro, si rischia di non garantire più il servizio. Sono crollati i ricavi da bigliettazione, meno 10%, quelli dei parcometri, meno 12%, quelli da bigliettazione meno 10%, quelli dei parcometri meno 12% rispetto al budget. Gli incassi da sanzioni per evasione della sosta tariffaria meno 12,5%. La mancata approvazione del nuovo contratto di servizio con Roma Capitale è già costata 14.300.000 euro, perché se fosse entrato in vigore sto contratto avrebbero portato a un dimezzamento dei costi standard. Ecco perché è come se fosse costato, non avendo firmato a gennaio, hai inutilmente pagato 14.300.000 euro in più. Sono diminuite le percorrenze chilometriche, 5 milioni di chilometri in meno da gennaio a oggi, dovuti ai guasti per la mancanza di manutenzione. Praticamente un autobus su due a Roma sta nel deposito. Le linee, per problemi di, appunto, di manutenzione, le linee A e B della metropolitana hanno lavorato rispettivamente il 15% e l'11% in meno rispetto al budget, per la soppressione di corse dovuta alla carenza di personale. Ora io mi chiedo, ho capito che l'autista della metropolitana è una qualifica specifica, ma come fai in generale a non avere personale all'ATAC a Roma quando hai 11.811 dipendenti? Sono 1.000 in più rispetto all'Alitalia, che insomma qualche pilota ce l'ha, ok? 11.800 dipendenti, ma non hai il personale per condurre i treni nella metropolitana. Tra l'altro sono 330 linee di superficie e 3 metropolitane, hanno chilometri inferiori anche alla città di Bilbao, che è un po' più piccola di Roma. Incassano metà dei biglietti come guadagno della TM a Milano. L'ATAC dal 2008 è in rosso costante. 1 miliardo di euro di perdite accumulate in 5 anni e pensate, in una città che ha 100 km di corsie preferenziali, che sono pochissimi, meno della metà di Milano, non a caso è la città al mondo, rispetto a qualunque centro urbano al mondo, Roma è la città dove ci sono più veicoli per residenti, 70 veicoli ogni residente, il 50% in più di Parigi, il doppio di Berlino. E ciò nonostante i macchinisti sono messi a fare lo sciopero bianco per il badge. Ora, sapete quanto lavora mediamente un macchinista della metropolitana dell'ATAC? Lavora 700 ore, e Marino voleva portare 950 obbligandoli appunto a strisciare il badge. A Milano un macchinista della metropolitana lavora 1150 ore. Traffico e poi andiamo ai consiglieri senza ritegno del comune di Foggia. Focus Economia. Allora, mentre vedo che molti segnalano che il centro unico prenotazione si chiama così perché forse ne puoi fare solo una, allora, centro unica prenotazione, andiamo al primo posto della classifica, ma devo dare una notizia che le agenzie hanno appena battuto e che riguarda l'ATA, che è proprio lo sciopero bianco dei macchinisti che lavorano quasi la metà rispetto a quelli di Milano. Eh no, perché va bene tutto, però c'è un limite anche alle richieste. Dice, è uno sciopero bianco, cioè rallentano i convogli. Così si è bloccato sulla Roma Lido, per esempio. La Roma Lido è una delle linee interessate allo sciopero bianco dei macchinisti. Sarà un caso, ma si è bloccato poco fa un treno nei pressi di Casal Bernocchi in direzione Roma. Ci sono varie squadre di vigili del fuoco. Alcuni passeggeri hanno accusato un malore e sono stati assistiti dal 118. Ma lo sciopero bianco, io veramente, ma lo fai perché non vuoi strisciare il badge? Cioè, ma lo fai perché non vuoi arrivare alle 1100, che poi non sono neanche 1100, perché Crocetta e Crocetta Marino vuole portare da 720 ore a 950 ore, a Milano sono 1150, dai, sciopero bianco. Comunque, Foggia vince, va al primo posto oggi della nostra classifica. Perché? Perché il sindaco, a cui va un plauso, il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha cercato di limitare questa bruttissima pratica che stiamo raccontando da mesi dei gettoni di presenza nei consigli comunali. Cosa succede? Per farla breve, che si fanno tantissimi consigli comunali, anche inutili, invece che accorparli, perché ogni volta scatta un gettone di presenza. Pensate che la modifica prevedeva un tetto al numero di riunioni mensili delle commissioni. Attualmente le commissioni del Consiglio Comunale di Foggia si riuniscono tutti i giorni almeno due ore, okay? e con 20-21 riunioni al mese, mai che tu ne faccia una da 4 o, per esagerare e sentiti un po' Stakhanov, una da 6 e quindi la accorpi, no, una da 2 ogni giorno. E la riforma prevedeva che il tetto massimo delle riunioni fosse di 8 volte al mese fino alla fine del 2015 e dal 2016 non più di 13 volte al mese. Siccome il comune di Foggia spende 600.000 euro l'anno per queste cavolo di riunioni, in cui per esempio ci sono commissioni consiliari come quella Affari Generali e Cultura, che non ricevono da mesi proposte di delibere su cui discutere, ma intanto si riuniscono tutti i giorni. Io vorrei sapere che cosa fanno per quelle due ore tutti i giorni se non hanno una delibera da discutere in Commissione Cultura e Affari Generali. Giocano a Tetris, si scambiano messaggi, cosa fanno? Allora, sapete che è successo? È stata bocciata perché, tra l'altro, questa misura che avrebbe garantito un taglio di 184.000 euro sui costi delle commissioni è stata bocciata. Il sindaco ha dovuto ritirare la proposta dopo che i capigruppo di centrodestra lo avevano invitato a ritirarla, e quindi la proposta è stata affossata, con la conseguenza, ecco perché si beccano, prima prima dovrebbero vergognarsi, e mentre cercano di vergognarsi gli diamo anche il nostro applauso. Perché cosa succede? Invece che tagliare i gettoni dei consiglieri comunali, che non servono a nulla al comune di Foggia come numero di riunioni consigliari, cosa taglierà il comune di Foggia? Ovviamente taglierà i servizi, tra il 5 e il 6, i costi dei servizi, quindi l'erogazione di servizi tra il 5 e il 7% per gli asili nido, gli accompagnatori dei bambini disabili, per la vigilanza e per il verde. Quindi non tocchi i gettoni dei consiglieri comunali, ma tagli i contratti per i servizi agli asili nido, agli accompagnatori dei bimbi disabili, alla vigilanza e al verde. Vergognatevi, e se li incontrate per Foggia diteglielo anche da parte mia. Un applauso ai consiglieri, a partire da quelli del centrodestra del comune di Foggia. No, dico, ma veramente non c'è nulla da aggiungere, basta. Tu preferisci che si tagli, si riducano i servizi essenziali a persone che già hanno avuto una sfortuna nella vita o comunque agli asili nido, ma continui a fare, giustamente, a far riunire ogni giorno la Commissione Affari Generali e Cultura, che non sa che cosa fare, visto che non c'è una delibera sulla cultura a Foggia, se non la cultura dei cavoli propri. Ma basta con queste notizie che tolgono l'attenzione dalle cose importantissime. Quali sono? Ce lo dice? Ci dice dove lavora? Chiede all'ascoltatore che cosa fa, se si sente toccato nel vivo, perché di solito quando riceviamo queste critiche è sempre per questo motivo. Io intanto ringrazio per ritirarmi su di animo di spirito l'ingegnere Adolfo Santoro, che è il nostro ospite oggi come testimonial, diciamo così, degli imprenditori che si sono rimboccati le mani, che hanno lanciato una nuova attività. Tra l'altro lei l'ha fatto da Salerno e quindi siamo ancora più contenti, visto che oggi la classifica era tutta del centro-sud. Le chiedo qualche minuto ancora, ho il GR24, la pubblicità, e poi ci racconta come è nata questa nuova iniziativa. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. So che ci sta cercando un consigliere comunale di Foggia che ci scrive che ha rinunciato al gettone dal dicembre scorso. Sì, ho capito, però adesso lo cercheremo, se non ce la facciamo oggi lo avremo nelle prossime puntate, però apprezziamo il gesto. Il problema è che non è passata una norma che permetteva al comune di risparmiare 114.000 euro, ma soprattutto, e questa è la cosa più grave, 184.000 euro, scusatemi, solo accorpando il numero di commissioni, non togliendo lo svolgimento regolare dell'attività democratica del Consiglio Comunale di Foggia, e vai a tagliare invece tra il 5 e il 7% i contratti per i servizi, per gli asili, gli accompagnatori dei bimbi disabili, la vigilanza e il verde. Tutto normale, no, Foggia? Allora, dicevo invece all'ingegnere Adolfo Santoro, amministratore delegato di Night. Che cos'è Night e dove è nata? Così sì, mi ritorno a buon umore. Sì, innanzitutto la ringrazio per averci dato la possibilità di presentare la nostra iniziativa. Prego. Sostanzialmente Night nasce circa 3 anni fa, maggio del 2012, ed è uno spin-off dell'Università di Salerno che intende commercializzare la tecnologia prodotta da un'esperienza ventennale di ricerca all'interno appunto del laboratorio, di uno dei laboratori dell'Università di Salerno, il laboratorio di computazione naturale, appunto allo scopo di commercializzare questa tecnologia e di metterla sul mercato. Che cos'è che andate a digitalizzare? Sì, sostanzialmente, diciamo, parlando in parole semplici, il nostro sistema è la nostra tecnologia, che ha un brevetto italiano e che, in attesa di quello internazionale, consente di automatizzare quello che è il processo di lettura automatica dei documenti. Mi spiego meglio. Sì. A partire da quello che è l'immagine digitale di un documento cartaceo, il nostro sistema consente di leggere il contenuto presente all'interno di tali documenti, così come farebbe un essere umano. Ovviamente, diciamo, il sistema appunto basato su... Quindi praticamente, se ho ben capito, una volta che viene scannerizzato un elemento cartaceo di un archivio o quant'altro, resta uno scanner. Voi invece riuscite a trasformarlo in un file, in un file di Word, diciamo, Word, per esempio, che sì, per cui può, esatto, essere elaborato poi al computer, ci si può lavorare dentro, ecco, non è semplicemente la foto, l'immagine che esce dallo scanner. Esatto. In quanti ci lavorate e a chi vendete questo software? Sì, allora, attualmente, diciamo, siamo 6 soci. E è anche un dipendente che abbiamo assunto per terminare la prima fase di sviluppo prodotto, che è stata completata circa un mese fa, quindi anche un po' in anticipo rispetto ai tempi. Bene. E sostanzialmente adesso ci stiamo riferendo, la tecnologia può avere diversi ambiti, ci stiamo riferendo al mercato dell'analisi forense, cioè a coloro i quali diciamo, utilizzano e effettuano analisi su campioni di scrittura, ad esempio periti grafici, cioè chi fa delle perizie calligrafiche, o in generale, diciamo, aziende appunto e privati che hanno la necessità di analizzare alcune caratteristiche della scrittura. Allora, chi vi ha dato i finanziamenti? Sì, i finanziamenti, diciamo, fino a un certo punto ci siamo autofinanziati. Autofinanziati, dopodiché, sì. Sì, dopodiché abbiamo ricevuto un finanziamento da una delle, diciamo, maggiori banche italiane, che ci ha permesso... Bello, dica. Unicredit. Bene, quando le banche fanno qualcosa di buono, diciamo, già le attacchiamo sempre. Prego, Unicredit. Che ci ha consentito sostanzialmente di estendere il brevetto a livello internazionale bene. E di terminare, come le dicevo, la fase di sviluppo prodotto. Il prodotto, adesso, il software è già commercializzato? Sì, esatto, diciamo è in Italia per adesso, lo stiamo commercializzando. Tuttavia, diciamo, l'idea, questo prodotto si rivolge soprattutto, come le dicevo, ai periti, ma l'idea è quella di poter fornire una maggiore stabilità all'azienda lavorando anche sulle aziende stesse. Quindi avete i primi clienti sono enti governativi, ma volete arrivare anche alle imprese private anche all'estero. Vi sta aiutando qualcuna delle istituzioni? Attualmente, diciamo, no. No. Non in maniera come dire, non in maniera strutturata. Quello che stiamo però facendo è che l'Istituto del Commercio Estero ci sta Lice, esatto, tramite il piano export, diciamo, per il Sud Italia, ci sta dando una mano al fine di progettare in maniera corretta quella che è il piano di internazionalizzazione e poi quindi qual è la scelta dei mercati esteri su cui diciamo andare nel 2016. Senta, avete assunto un dipendente col Jobs Act, visto che ho detto che pochi, che è stato un mese fa, contate di assumerne altri? Sì, noi sicuramente, diciamo, abbiamo fatto le valutazioni interne e abbiamo la necessità di diciamo migliorare quelle che sono le competenze interne su ambiti tipo marketing e commerciale. Mi chiedono, diciamo, moltissimi ascoltatori, mi dica, scusi. Sì, siamo un team probabilmente sbilanciato dal punto di vista tecnico, questo è un c'è troppi tecnici e poca parte, diciamo, marketing, vendita, esatto, commerciale. Beh, bene, speriamo che assumiate. Mi chiedono molti ascoltatori, per carità, questo non è il programma di Enrico Paglianini 2024, però che differenza c'è con un comune sistema OCR? Adesso, se vuole dirci una battuta, così leva il dubbio. La differenza sostanziale non ci capisco nulla, per cui per me può dire quello che vuole. Prego. La differenza sostanziale è che questo sistema, diciamo, si propone di leggere quella che è la scrittura manoscritta corsiva, che legge anche il manoscritto in corsivo, capito? Esatto, che quindi tiene conto anche della variabilità che ciascuno di noi inserisce nella scrittura. Ecco, quindi, perché andate anche sulle perizie legali. In bocca al lupo a lei, ai suoi cinque soci, all'unico dipendente che speriamo resti solo, è particolarmente importante, perché a noi questo appuntamento serve per rincuorarci dopo quello che leggiamo, per dimostrare che non è inutile solo piangersi addosso, c'è chi accetta la sfida e ha lanciato, ormai siamo a decine di testimonianze, attività proprio in questi anni di crisi, e poi nel caso specifico suo, come è già capitato altre volte, anche perché operate nel mezzogiorno e quindi una notizia positiva dal nostro Sud ci rincuora ulteriormente. Grazie ancora, in bocca al lupo, l'ingegnere Adolfo Santoro. E l'azienda si chiama appunto Night, n.i.t. La borsa oggi vi accontentate di me, anche perché c'è poco da dire. 0,06% è la variazione in positivo di Parigi, meno 0,07% è quella di Milano, Francoforte meno 0,37%, Londra meno 0,31%, Dow Jones meno 0,40%. Allora, i titoli, Tenaris meno 2%, per quello che riguarda poi Saipem meno 1,80%, CNH Realizzi, dopo una settimana in cui ha toccato i massimi da un anno e mezzo, perde l'1,60%. Sui petroliferi oggi c'è più di un realizzo, alcuni li abbiamo già citati. Invece ha approfittato di una leggera riduzione del prezzo del petrolio la Saras, perché in questo modo aumentano i margini da raffinazione, più 9,71% oggi è il miglior titolo sul listino. Bene, visto che parlavamo dei migliori e peggiori, oggi si era mossa bene anche Brunello e si è mossa bene anche Brunello Cucinelli. Dopo i dati, ricavi oltre i 200 milioni in crescita del 14%, boom in Nord America più 26% a 70 milioni di euro di ricavi solo in Nord America per Brunello Cucinelli. Per quello che riguarda i titoli, bene oggi tutti quelli esposti sull'area dollaro, quindi che fatturano anche in dollari, perché il dollaro si è rafforzato e comunque in questi giorni l'euro a quota 1,08 e quindi bene Luxottica più 0,31%, ST Microelectronics è il migliore più 1,22%, bene anche Finmeccanica più 0,16%. Poi le banche, allora il Monte dei Paschi, qui ci sono le voci di Tononi come possibile presidente al posto di Alessandro Profumo che se ne andrà. Ieri Tononi ha incontrato il ministro Padoan, che tra l'altro è azionista, non lui, ma il ministero, da 2 settimane del Monte dei Paschi, dopo la conversione delle obbligazioni del prestito in azioni, i famosi Monti Bond. Adesso il Ministero delle Finanze, Economia e Finanze ha il 4% del Monte dei Paschi. Tra gli altri titoli bancari segnalo anche il Banco Popolare più 1,20, la Popolare Emilia Romagna più 0,80, la Pop Milano più 0,60, come Intesa San Paolo, peggior titolo, Meridie meno 33%, Blue Note meno 7,5%, primi sui motori meno 7,40%. Ora c'è il traffico, poi torniamo in diretta per parlare di Grecia e di riforma della pubblica amministrazione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. In der Sache lautet die Frage. Se la domanda è: i vantaggi dell'accordo siglato lunedì superano le contropartite? La mia risposta è con piena convinzione sì. In primis, per valutare vantaggi e svantaggi, dobbiamo tenere bene a mente i principi di responsabilità reciproca e di solidarietà che ci hanno guidato fin dal principio della crisi dei debiti sovrani nei paesi dell'Eurozona e che sono ben visibili anche nel risultato che abbiamo raggiunto lunedì. In secondo luogo, occorre tenere presente che l'alternativa a questo accordo sarebbe stato il caos. So che molti di voi sono preoccupati e dubitano che la Grecia abbia la forza di andare avanti su questa strada, di tornare a camminare con le proprie gambe. E mi rendo conto che si tratta di preoccupazioni fondate. Ma la mia ferma convinzione è che sarebbe stata una grave negligenza da parte dell'Eurogruppo non tentare nemmeno di percorrere questa strada e non dare alla Grecia questa chance. Mit vereinten Kräften aus der Krise zu kommen, nicht noch einmal geben würde. E questa era Angela Merkel oggi, nel giorno in cui compie 61 anni, prima di andare in vacanza al Bundestag, che ha approvato gli aiuti alla Grecia e il piano con gli aiuti alla Grecia. In realtà è sbagliato l'accordo fatto con la Grecia, tra l'altro dall'Europa fatto con la Grecia, ma in Germania andava approvato dal Parlamento. Angela Merkel ha anche aggiunto sempre al Bundestag: il risultato del referendum greco è stato un mucchio di rovine, sono giorni drammatici per la Grecia, ha aggiunto, provate a immaginare i pensionati tedeschi davanti alle banche. E poi ha detto: noi siamo contrari comunque al taglio del debito, stravolge i trattati dell'Unione Europea. Ha ringraziato Schäuble, il suo ministro delle finanze, per il suo lavoro sulla Grecia, e il Parlamento tedesco gli ha dedicato un lungo applauso. Però io non capisco una cosa: quando la Merkel dice attenzione, saremmo entrati in una terra sconosciuta, gli svantaggi sarebbero stati peggiori dei vantaggi, a chi lo dice? Lo dice a chi non voleva fare questo accordo, cioè a Schäuble stesso, che è tornato a ribadire ieri che la soluzione migliore era l'uscita della Grecia temporanea dall'euro per 5 anni. Oggi ha detto: vabbè, è in ballo non la Grecia ma l'Europa, grazie Schäuble. Eravamo tutti d'accordo per salvare Atene, ma bisogna trovare una strada che funzioni. Oggi è più morbido Schäuble e ha aggiunto: le regole europee escludono un taglio del debito. Siamo riusciti a fare in modo che la Grecia rimanesse nella zona euro. Questa era la volontà del paese e noi la rispettiamo. Ora è necessario che l'economia ellenica diventi competitiva. E questo non potrà essere possibile, a meno che la Grecia non adotti riforme radicali oggi stesso. Il fabbisogno finanziario rende necessario pensare ad una rinegoziazione del debito. Ma ricordo che i trattati europei precludono la possibilità del taglio del debito. Questa necessità rimane comunque ben presente. Pertanto io rimango della convinzione che la soluzione migliore sarebbe stata un'uscita temporanea della Grecia dalla zona euro, per permettere al paese di riorganizzare la propria economia e farla tornare competitiva. La mia responsabilità, in quanto ministro delle finanze della Germania, è quella di arrivare ad una soluzione che possa risultare convincente per tutti voi colleghi e per i cittadini tedeschi. Questa, secondo me, è la responsabilità che abbiamo oggi. Schäuble continua a dire che i trattati non prevedono la riduzione del debito, a parte il fatto che i trattati si scrivono e poi si modificano, però non la pensa così né Mario Draghi né Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, che oggi ha detto bisogna rinegoziare il debito greco, l'abbiamo capito tutti, ha detto bisogna prolungare le scadenze e ridurre gli interessi, un periodo di grazia. Già ieri su questo era intervenuto appunto anche il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Oggi sul tema, e in maniera radicalmente opposta a quanto ha dichiarato più volte Schäuble, è intervenuto anche il ministro francese delle finanze, che vale quanto il ministro tedesco delle finanze, no? Michel Sapin, che ha detto io la penso in maniera radicalmente opposta a Schäuble, bisogna alleggerire il debito e non esiste far uscire la Grecia dall'euro anche temporaneamente. Non si può semplicemente chiedere ai greci di fare sforzi, che sono necessari e assolutamente indispensabili, senza però prevedere anche degli elementi che possano facilitare la loro vita. C'è la necessità di spingere sugli investimenti in Grecia, e allora è stato previsto un piano di investimenti, 35 miliardi da parte dell'Europa. Occorre anche alleggerire il peso del debito, in modo particolare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, per dar modo all'economia greca di ritrovare slancio, di ritrovare la crescita e l'occupazione. Penso che non vada bene il discorso che se si ha un debito di 100 euro si intenda rimborsarne solo 80. Non è accettabile da parte nostra, perché vorrebbe dire che i francesi che hanno partecipato al salvataggio alla fine non avranno indietro i loro soldi. L'alleggerimento del debito significa che il suo peso è distribuito nel tempo, ma alla fine la somma che viene rimborsata è quella iniziale, non cambia. Questa è sempre stata la posizione francese, nel rispetto delle regole europee da una parte e dall'altra per portare un sollievo necessario al popolo greco. È un anticipo quello che sto per darvi, perché poi parleremo la settimana prossima della riforma della pubblica amministrazione. Però chiedo a Davide Colombo, che ne scrive da tempo sul Sole 24 Ore. Buonasera Davide. Buonasera, buonasera. Visto che oggi la Camera ha approvato con 253 sì il testo della riforma della pubblica amministrazione, adesso va al Senato in terza lettura, ma non dovrebbe essere ulteriormente modificato. Le novità più importanti, ma anche i limiti più forti. Poi ne parleremo ampiamente la prossima settimana nel dettaglio, perché ci sono tantissime cose, dai concorsi ai dirigenti, la forestale e quant'altro, le prefetture e quant'altro. Prego. Sebastiano, più che darti una, come dire, un punto sulle ultime novità di una norma così complessa, sono 18 articoli che contengono 15 deleghe e un po' tutto campo di riordino dello Stato, della pubblica amministrazione, del pubblico impiego, della dirigenza. Per ricollegarmi al discorso che avete fatto finora, volevo ricordarvi quanto viene cifrata nel DEF questa riforma. Questa riforma strutturale, che è stata apprezzata a Bruxelles per la validazione della cosiddetta clausola di flessibilità, dovrebbe cifrare 0,4 punti di PIL potenziale nei prossimi 5 anni se attuata completamente, 0,4 punti su un PIL potenziale che dovrebbe crescere da qui al 2020 di 1,8 con l'attuazione delle altre 4 grosse riforme su cui è impegnato l'esecutivo, cioè Job Act, competitività, giustizia e scuola. Quindi diciamo vale circa 6 miliardi di euro. Esatto, diciamo che è una, come dire, forte azione di semplificazione e di razionalizzazione dei sistemi amministrativi centrali e periferici che va da sé, se attuata, uno Stato che spende meglio, spende meno e funziona meglio, magari in via anche digitale, fa girare meglio l'economia. Però è importante che il DEF ci fa girare meglio l'economia e fa girare meno le scatole a chi ha a che fare con gli uffici pubblici. Però il fatto che sia stato così cifrato è importante e io guarderei da quest'ottica questo percorso dell'iter di riforma. A questo punto, a un anno dal suo annuncio, è bene che si arrivi all'attuazione. Sì, perché appunto, il governo aveva promesso che entro l'autunno, cioè entro settembre, se non ricordo male, fine settembre, il disegno di legge sarebbe stato approvato. Poi c'è tutto il tema dei decreti attuativi di cui parleremo con te. I decreti attuativi, io vi faccio un brevissimo anticipo, poi ne parleremo le prossime puntate se vuoi. Sì. Stiamo parlando di 17-18 atti, no? Che dovrebbero essere in qualche modo presentati da settembre in poi. Sono atti che prima di andare in gazzetta, quindi deve essere applicativi, hanno bisogno di passare i pareri parlamentari e in qualche caso dai pareri di Consiglio di Stato e Conferenza Unificata. Diciamo che se si pedala, da qui all'autunno inoltrato dovremmo avere in gazzetta i primi regolamenti. Per esempio, ce n'è uno, ne cito uno concretissimo, sì, per esempio, di delegificazione che punta a dimezzare i tempi delle procedure autorizzative per le grandi opere infrastrutturali e per le concessioni di nuovi grandi insediamenti produttivi. Ecco, questo qui è abbastanza semplice e se si fa entro l'ottobre prossimo, sì, no, potrebbe effettivamente cominciare a aiutare a realizzare quei 0,4 punti cumulati che sono stati teorizzati come risparmio complessivo, esatto, per lo Stato dalla riforma della pubblica amministrazione. Ne parleremo nel dettaglio, perché sono 18 punti importantissimi, ripeto, dal riordino delle prefetture, l'assorbimento del corpo forestale, la licenziabilità e la valutazione dei dirigenti, c'è di tutto. Intanto grazie Davide Colombo. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana al programma. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo dovrà passare lavorando. Radio 24, la passione si sente.